Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza dei produttori di caffè consuma 30 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda cosa trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali. Tutto il mondo si beve caffè. E alle 17:06 minuti riapre questa trasmissione di Caffè Doppio. Ringraziamo Trebla per aver messo un sacco di progressive nell'ora che ci ha preceduto. E qua siamo in studio con Cucchiaino e Tameto e un ospite specialissimo che ci introdurrà in questo momento, Cucchiaino. Sì, proprio così, torniamo all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, 0649 1750 il numero di telefono. Siamo riusciti a cacciare Otrebla dallo studio. E allora sì, Cucchiaino, introducici questo ospite. E ho l'onore di presentare ai nostri ascoltatori un giovanissimo autore musicale che ho avuto il piacere di conoscere attraverso varie anche collaborazioni che ha fatto, che sto per fare, che ho fatto con lui, e lui è il giovanissimo Riccardo, di anni 18, anche detto Rubber Soul, anche detto Ongaku. Beh, subito dopo gli chiederemo allora perché si chiama così. Comunque, salve a tutti. Ecco. Intanto di sottofondo già cominciamo ad ascoltare uno dei beat che ci ha portato. Questo qui ci farà compagnia per questa prima mezz'ora di trasmissione che passeremo a chiacchierare con questo giovane compositore. Ma intanto una prima domanda così di introduzione abbastanza generica: come hai iniziato a fare musica? Se subito ti sei affacciato su questo mondo della musica elettronica, oppure se invece hai iniziato suonando un altro strumento? Insomma, presentati un po' come ti piacerebbe che la gente ti vedesse. Sì, allora, ho cominciato parecchi anni fa, più o meno in prima media. Sono affacciato sul mondo musicale come musicista più che compositore di musica elettronica. Ho cominciato a suonare la chitarra a scuola e poi ho portato avanti questa passione della musica continuando sempre suonando la chitarra come autodidatta, e circa 2 anni fa ho scoperto un po' più da vicino il mondo dell'hip hop e ho cominciato a comporre basi per canzoni hip hop che purtroppo ancora non hanno, come dire, avuto fortuna. Le parole ancora non hanno parole, che però se mi posso permettere, probabilmente presto ce l'avranno grazie anche alla collaborazione di Cucchiaino. Sì, ci stiamo lavorando, e comunque sì, grazie anche a social network e internet spero di farmi conoscere presto. E nulla, per quanto riguarda il mio nome invece, il nome che ho scelto, Rubber Soul, è il nome di un album dei Beatles. L'ho scelto a parte perché mi piaceva come suonava il nome e anche perché rappresenta un po' uno dei miei punti di riferimento, appunto, che è il gruppo musicale dei Beatles, penso che tutti lo conoscano. E l'altro invece, diciamo, nickname è Ongaku. Ongaku è una parola giapponese e significa musica, e quindi vabbè, è chiaro il significato che ha questa parola. Per me la musica molto importante, è quello che faccio. Va bene, allora forse ci possiamo subito ascoltare uno dei tuoi pezzi. Sì. Direi proprio di sì. Dici tu da dove preferisci che cominciamo, se non hai preferenze. No, non ho preferenze, vai tu, vedi. Va benissimo, allora facciamo presentare a Cucchiaino un pezzo. Dici tu, quale mettiamo? Getting In oppure il secondo che ci ha portato il nostro Riccardo? Mandiamo il secondo, che è uno dei miei pezzi preferiti di Riccardo, che si chiama Mushrooms. E è un piacere ascoltarlo. E Io al solito alle prese col computer faccio tutti questi disastri. E dai, allora la rimettiamo da capo. Però questa volta la vera, non quella che hai messo te. Sì, se poi alzo il volume giusto. Allora, per renderci noti i vostri apprezzamenti, 342-357-4357 è il nuovo numero per mandare SMS a Radio Onda Rossa. Mentre per farci uno squilletto qua, in redazione 0649-1750. Siamo di nuovo in diretta con questa puntata di Caffè Doppio, 27 maggio 2012, 17:14 minuti, 28 secondi, ancora in compagnia con Riccardo. Io ti continuo a chiamare per nome perché ormai la figura mi suscita il nome Riccardo. Sì, sì, ascoltiamo. Dillo, ammettilo, è soltanto perché non ti ricordi gli altri nomi. No, ammettilo. Uno me lo ricordo, sì, Hongaku. Sì. L'ho pronunciato bene, che vuol dire Riccardo. Musica in giapponese. Vedi, sono stato attento adesso. Io sembro spensierato là con lo sguardo nel vuoto, sì, però sì. E infatti alla fine un po' d'orecchio ce l'ho. E cucchiaino ti ha suggerito, il labiale, così. Ma sì. Le nostre tecniche. Allora, ci continuiamo ad ascoltare uno dei beat di Hongaku in sottofondo, mentre continuiamo anche la nostra chiacchierata con lui, con questo giovane musicista, da un po' anche compositore di musica elettronica. E allora DVX ci suggeriva una giusta domanda. La cosa interessante è capire come sei arrivata alla musica elettronica, perché hai scelto di andare in questa direzione, cioè di cominciare a comporre musica elettronica, quali sono state le tue influenze, insomma, qual è il percorso che ti porta a scrivere musica elettronica? Sì, allora, diciamo che il mio incontro con la musica elettronica è stato puramente casuale, nel senso che mio fratello aveva un amico, diciamo, sì, un amico che gli ha permesso di avere appunto programmi, ad esempio al computer, che gli permettessero di produrre musica elettronica. Inizialmente quindi anch'io ho trovato divertente l'idea di giocare appunto con questi programmi che permettevano di esternare quello che avevo in mente, anche perché la cosa che mi piace della musica elettronica, che può andare da quella puramente elettronica come drum and bass o dubstep, ma anche house, all'hip hop, che può avere anche dei risvolti più, diciamo, analogici, e quindi utilizzare anche strumenti musicali. Comunque quello che mi affascina è il fatto di poter utilizzare tanti suoni insieme. Infatti prima di essere produttore ero solamente un chitarrista, e quindi mi ritrovavo solamente a suonare la chitarra, mentre essendo produttore di musica elettronica posso giocare con qualsiasi suono a mio piacimento e quindi avere una vasta gamma di scelta. E questa è una cosa che mi è piaciuta fin da subito. E poi un'altra domanda, volevo sapere un po' se in questo momento tu avevi dei progetti aperti, o comunque hai dei progetti che hai intenzione di portare avanti. E poi una domanda che non so quanto sia inerente, però volevo sapere se hai intenzione di formare una band, appunto per quello che hai detto, la musica elettronica si può anche riprodurre con degli strumentisti, quindi di formare una band e così fare concerti live. Beh, sicuramente sarebbe una buona idea e mi piacerebbe molto. Per adesso sto cercando di migliorarmi dal punto di vista di qualità del suono e anche dal punto di vista di composizione musicale, quindi per ora diciamo che i miei progetti sono quello di migliorare quello che sto facendo, e poi in seguito sì, spero di poter condividere, diciamo, quello che faccio con altre persone. Anche adesso sto cercando di produrre dei beat hip hop per alcuni miei amici, tra i quali il qui presente. Il qui presente Cucchiaino. Proprio lui. Che non si chiama Cucchiaino però nel progetto, immagino. Spero di no per lui. Un po' schizofrenico, dobbiamo dirlo. A seconda della situazione si chiama in tanti modi diversi. Purtroppo è così da quando sono nato. Purtroppo. No, nel mondo hip hop ho altri nomi. Ah sì? Sì. Ma questa non è un'intervista per te, Cucchiaino, no, lo sai? No, e allora non parlare. Mazzo, quanto è cattivo di VX oggi, guarda, non ce l'ho mai visto. C'ha le cose sue, purtroppo. Vabbè ragazzi, non si dice così in diretta, però scusate. Poi arrossisce, voi non lo vedete, però arrossisce sul serio, sì. Vabbè dai, allora andiamoci ad ascoltare un altro pezzo prima di continuare questa chiacchierata. A questo punto credo che ce lo puoi presentare te, se ti va. Sì, andiamo con Getting In. È un beat hip hop che ho creato campionando un vocale di una canzone di Biggie Smalls, a.k.a. Notorious B.I.G., famoso MC americano. E allora andiamo all'ascolto di Getting In. Dream. Allora ancora 87.9 Radio Onda Rossa 0649 1750 il numero di telefono con cui potete entrare in contatto con noi. Questo è ancora Caffè Doppio alle 17.23 minuti primi, ancora in compagnia di Ongaku. Ascoltavamo il secondo pezzo che ci portava, oltre al sottofondo che stiamo ascoltando anche in questo momento. E allora cominciavamo a parlare un po' di composizione, come sei arrivato al mondo della musica elettronica. E una cosa che mi interessava sapere da te era anche proprio a livello pratico come componi, cioè se ti metti davanti al computer, c'hai Logic davanti e ti spizzi tutti i suoni, dici ah che bel suono, ci faccio un beat, oppure se, non lo so, strimpellando la chitarra ti viene in mente una melodia, se te la canticchi in giro e poi la trasformi in quello che diventa. Beh, diciamo che non ho un metodo preciso e obiettivo. Può capitare sia che mi venga una melodia in mente, quindi canticchiandola la posso ad esempio registrare sul cellulare, poi torno a casa, la compongo, la risuono alla chitarra, oppure appunto utilizzando un programma, un software sul computer. Può capitare anche che mi venga in mente una melodia suonando la chitarra o suonando il pianoforte, quindi diciamo che non c'è un metodo vero e proprio. Mi adatto alle varie circostanze, può capitare che una melodia nasca in un modo o in un altro. Poi ultimamente, dato che mi sto concentrando soprattutto sulla produzione di basi hip hop, diciamo che la melodia l'ho lasciata un po' da parte per lasciare spazio all'operazione del campionaggio, ovvero campionare canzoni preesistenti e tagliare i suoni e inserirla in un groove di batteria che ho creato io. E poi un'altra domanda, appunto, che ti chiedevo prima nel fuori onda, volevo sapere un pochettino come tu ti proponi a questo mondo della musica elettronica, della drum and bass e di tutto quello che tu produci, anche perché abbiamo visto molte difficoltà nell'inserimento dei nuovi musicisti nel mondo musicale. Allora volevamo sapere come tu cerchi di muoverti. Diciamo che sicuramente è difficile, soprattutto in questo momento di crisi mondiale economica, affermarsi come musicista. È difficile già per i musicisti, appunto, che comunque hanno la possibilità di esibirsi in live, ed è ancora più difficile quindi per un produttore di musica elettronica che non ha la possibilità di esibirsi in concerti. Tuttavia la possibilità in realtà c'è, perché se io ad esempio mi comprassi, non so, una console per DJ, potrei tranquillamente effettuare delle serate in discoteche, per esempio. Purtroppo le mie finanze non me lo permettono, quindi per ora diciamo che mi limito a fare quello che faccio, e quindi cerco di farmi conoscere soprattutto su internet, sulla mia pagina SoundCloud, sulla quale mi chiamo Rubber Soul. O anche come su... si chiamava? Quello che ti mancava. Vabbè, dato che l'abbiamo citato, allora ricordiamo tutte le pagine su cui ti possono contattare le persone. Anche, parlavamo prima, cerchi anche delle voci per poter migliorare il tuo progetto. Sì. Quindi dici i tuoi contatti, tutto quello che... dove possiamo trovare la tua musica, insomma. Beh, ecco, appunto, principalmente sulla mia pagina di SoundCloud, questo sito direi molto pratico per tutti i musicisti me contemporanei, nel senso che permette anche al più sconosciuto di farsi conoscere sulla scena musicale a livello mondiale. E quindi principalmente sulla mia pagina SoundCloud, sulla quale, ripeto, mi chiamo Rubber Soul. E poi, per chi volesse, c'è la mia pagina Facebook, il mio profilo, però non ho alcuna pagina di fan, diciamo. Mi chiamo Riccardo Balestra, per chi volesse cercarmi. Crossbow, come in inglese, come chiamiamo noi anche a volte Riccardino. E niente, un'altra domanda che volevo farti io era praticamente se, appunto, parlando della tua produzione musicale, quando, cioè, ti capita più spesso, cioè se ti capita più spesso di partire, che ne so, da una melodia o piuttosto magari da un groove di batteria, soprattutto perché appunto parlando di generi differenti che sono magari la drum and bass e l'hip hop, che si basano molto anche sul groove stesso, cioè sul ritmo, piuttosto che magari sulla melodia, che è tuttavia comunque importante. Sì. Beh, penso che anche qua non ci sia una risposta definitiva, obiettiva e assoluta. Nel senso che può capitare a volte che io parta da un groove di batteria, che mi venga in mente il groove stesso, che io penso che che ci possa stare, che sia bello, e crei direttamente la batteria, e in seguito mi possa venire in mente una melodia o degli accordi di accompagnamento con qualsiasi strumento musicale. Può capitare viceversa che io parta da una melodia. Il congiuntivo è un problema per tutti, soprattutto per noi, ma è giusto. Quindi sì, può anche capitare che io parta appunto da una melodia e poi arrivare al groove di batteria. Non c'è una risposta definitiva, come nella domanda precedente, è relativo. Capito. Va benissimo, senti, allora a questo punto io direi che ci possiamo ascoltare ancora un po' di questo beat che ci ha fatto compagnia per questa chiacchierata. Se non ci vuoi aggiungere altro, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti diamo appuntamento a una prossima volta, quando avrai altro da dire, quando avrai continuato a comporre, noi saremo molto felici di riospitarti. E a questo punto grazie ancora una volta, speriamo di vederti prestissimo in qualche locale a suonare e per ballare. Va benissimo, allora grazie ancora e andiamo ad ascoltare un po' dei groove creati da Riccardo. Naturalmente, se vi piacciono questi groove, contattateci allo 06 49 17 50. Oppure mandateci un messaggio al 342 3574 357. Caffè Doppio proudly presents Americani Blue Blood from Zinauer Barack Caracasa Blanca Para di Ciuciu. Ma che cazzo hai detto, Dè? E vabbè, le notizie di Otrebla. Ebbene sì, ci siamo sentiti fino a mezz'ora fa. Puntuale come i regalini a Natale, alle 5.32 le campane di San Lorenzo suonano per Caffè Doppio. Bentrovati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa con la rubrica che ci va a ricordare quanto è bello vivere nel paese dei furbi. Oh, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. No, vabbè. Il prezzo dei biglietti dell'ATAC aumenta da 1 euro a 1,50 euro a partire dal 25 maggio. Scatta subito la protesta dei cittadini e comincia a rimbalzare da blog a blog lo slogan ATAC non te pago. La città è tappezzata di volantini cartacei che recitano: contro il rincaro del biglietto passato da 1 euro a 1,50 euro, la cancellazione degli abbonamenti mensili, la diminuzione delle agevolazioni per anziani, disoccupati e invalidi, i tagli alle linee meno frequentate. E diciamocelo però tra noi, mentre le corse dei bus sono diminuite, i servizi tagliati, il sindaco Alemanno vende il 21% di Acea per ricavarne 200 milioni di euro, ma non se li tiene. Ma da questi 200 milioni prende 12 milioni di euro che vengono impiegati per acquistare i locali occupati dai fascisti del terzo millennio di Casa Pound. Il gentile dono. E gli ambigui regalini del sindaco più antifascista che Roma abbia mai avuto. E rimaniamo a Roma, un sms di minacce con riferimento a una bomba è stato inviato la sera del 23 maggio da una cabina pubblica alla preside del liceo Lucrezio Caro di Roma. Nel messaggio si faceva riferimento alla morte del giudice Falcone e a quella di Melissa. Nel messaggio c'era anche scritto: la mafia non si limiterà a una bombola del gas e domani parecchi ragazzi moriranno. La preside ovviamente Porto denuncia al commissariato Villa Gloria e la mattina del 24 maggio sono state effettuate le verifiche. Nell'istituto in via Venezuela 30 non sono stati trovati ordigni e le lezioni si sono svolte regolarmente. Perché parliamo, cioè, la mafia, gli sms, i prezzi della globalizzazione. Può esserci veramente unità e concordia tra gli uomini e come? Questa è la domanda che il Papa si è fatto nell'omelia di oggi dopo aver denunciato il senso di diffidenza, di sospetto, di timore reciproco che ci fa persino diventare pericolosi gli uni per gli altri. Diciamoci che dopo gli scandali che stanno sconvolgendo il Vaticano negli ultimi giorni, il Papa è un po' preoccupato. E come al solito, dopo averci concesso parole nuove e piene di significato anche questa domenica, annuncia che la risposta si trova nel dono dello Spirito di Dio, che dà cuore nuovo e lingua nuova e capacità di comunicare dove prima c'era estraneità. Per noi tutti la soluzione starebbe nel trasferimento del Vaticano in qualche isola sperduta della Polinesia, ma comunque ringraziamo il Papa per il consiglio. Giuseppe, insomma, un amico di famiglia. E anche questa settimana il paese dei furbi ne ha combinate di tutti i colori, anche se non c'è tempo per poterli elencare tutti. Purtroppo. A voi la linea studio. Ringraziamo Trebla per le sue news sconvolgenti della giornata. Prego. Ma scusami, non ci avevi dato la linea? Vabbè, però cioè, se volete me ne vado. Nel senso, bravo. Fate voi. E va bene, va bene. Allora, 17, 37 minuti, 40 secondi, tra un secondo adesso proprio, 87.9, Radio Onda Rossa. Fate Vabis. E allora, torniamo in diretta con questa puntata di Caffè Doppio in questa domenica 27 maggio 2012. Abbiamo appena avuto in studio, se vi siete appena collegati, Riccardo, anche detto Hongaku, oppure... Rubber Soul, quello lì me lo dimentico sempre. Lo ringraziamo, lo salutiamo se ci sta ascoltando, aspettando un autobus de merda. Sempre e passiamo... in tema di biglietti ATAC. Eh sì, perché è una questione che a noi ci tocca particolarmente. Diciamo che nel frattempo, mentre David si diverte a giocare con la lampada che non sta mai ferma, e l'ha messa precisamente davanti allo schermo del computer. Così allora, io non è che mi diverto, è che qua le cose non funzionano bene. Non piangere, dai Davide, per favore. E vabbè, dai, si va avanti. Parlavamo appunto di questo aumento del biglietto dell'autobus, ma a noi non importa tanto alla fine, perché c'è un altro mezzo di trasporto che ci piace molto di più, che ti fa bene al fisico, ai polmoni, respiri un po' di aria pulita. Soprattutto a Roma. E proprio così abbiamo deciso di dedicare questa seconda parte della puntata di quest'oggi ha il mezzo fantastico che è la bicicletta. Questo mezzo questo mezzo a due ruote che ti porta ovunque facendo un po' di fatica, però alla fine dà anche più soddisfazione. Diciamo che siamo anche un po' in tema, visto che in questi tre giorni, venerdì, sabato e domenica, si è svolta la Ciemona. Vabbè, ma la vuoi mandare avanti sta canzone? Oppure sempre da capo, ascoltiamo tre parole? No. Bicycle. Non mi piacevano tanto queste tre parole. Potremmo riprodurre noi il coro a cappella che riuscivano a fare qui, intanto che ce vanno. Non... ragazzi, io se si è fatto tardi vado a prendere un autobus di merda. E il biglietto? Il biglietto non lo pago. Bravo. Pure io. Say Rose, say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Proprio così, in questi tre giorni, una grossa fetta della popolazione di Roma ha voluto immaginare un mondo di trasporti alternativo. Con la Critical Mass, una manifestazione che ha coinvolto persone da circa 400 paesi del mondo e che lo fa ogni anno, appunto, per invitare la gente a prendere in braccio o in piedi le loro biciclette oppure utilizzare i mezzi pubblici. Insomma, siamo non proprio d'accordo. Beh, siamo in tema, però assolutamente d'accordo contro l'inquinamento. Anche se non so se in tutto il mondo ci siano l'ammontare di 400 paesi del mondo. Ma che hai detto, Cucchiaino? Mi rifiuto. Ma che hai detto? Perché il signor Odrebla ha detto che vengono da 400 paesi del mondo. Però non è corretto, perché sono 400 città del mondo. Bravo, non però esisto, esprimiti bene. Ma non esistono 400 paesi nel mondo, è impossibile, cioè saremmo troppi. Aspetta, fammi fare una conta. Allora, l'Italia, lo Stato Vaticano. No, vabbè, no, no, effettivamente 400 città del mondo, faccio la correzione. Faccia rossa da bambino, fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando. E anche la nostra scaletta musicale verte su questo mezzo a due ruote di Cocciante in bicicletta. Anche se dalla voce potevate sbagliarvi e dire che era Baglioni. Allegri, accesi, entusiasmo, razzi. Che ne dici, ci mangiamo un panino? C'è un baretto proprio qui vicino. Mentre il naso ti stai soffiando. Certo, Baglioni si starà riportando alla tomba. Guarda che non è morto. Sì? Giardino, vedo una casa, poi vedo un bimbo e noi passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta sentendoti vicino. Da che parte adesso siamo? Il futuro è nato stamattina, prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando. Oltre che ai musicisti, lo squilletto facciamolo anche ai ciclisti, perché fa rima. 06 49 17 50. Invece per mandarci un sms 342 357 4357. Vedo una casa. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza freddo. Rileggendo il flyer mi correggo, potrebbero essere 400 paesi del mondo, perché sul flyer c'è scritto che è interplanetaria. Interplanetaria però vuol dire che è tra diversi pianeti, perciò e so colonie dello stesso mondo. Oddio, colonie spaziali! Mentre mi sto innamorando, mentre mi sto innamorando, mentre mi sto innamorando, na, na, na. E sul flyer leggiamo: usa la testa, usa la bici. Critical Mass Roma invita chi si sente critico verso questo modello di sviluppo a pedalare per scoprire il volto umano della città, sperimentando un modo diverso e più che mai necessario. Cemona, una volta l'anno, ti invita a pedalare in mezzo a migliaia di ciclisti per provare l'ebbrezza di una città diversa. Ti invitava perché finiva oggi. Tu purtroppo. Le battute agghiaccianti di Debo. Cosa dice un vulcano appena nato? Magma! Le battute agghiaccianti di Debo. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Dagli amichetti di Onda Rossa, Radici nel cemento. Ed elegante, fosse della. Potremmo dire questa canzone un po' simbolo della bicicletta. Strada, non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata. Non sono mai depresso, ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Con la tua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta, con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Ringraziamo i cani qua vicino alla redazione di Radio Onda Rossa in via dei Volsci, che stanno abbaiando a tempo delle radici nel cemento. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga e non ne posso fare a meno, se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri e fatichi sempre poco, con un carrollo al seguito puoi fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la appendo alla parete e poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta. E noi abbiamo un amico un po' tonto, un po' roscio, sulla mia bicicletta, che vorremmo salutare. Pietruzzo, che ogni tanto via la sua bici e comincia a pedalare sul raccordo, fa 7 giri per arrivare da San Lorenzo al Pigneto, anche se non si capisce perché, però gli piace pedalare. È il fiore all'occhiello dell'ingegneria, impagibile congegno, ad orologeria, ce ne andiamo in piazza. Infatti non si capisce, a me mi piace il T-Max che pigli, sali, gli dai gas, te impenni, te scroci. Col sorriso in faccia e con il vento tra i capelli. Pia poco per il culo, sia perché te scroci, mi sa che ultimamente tu hai avuto qualche problema col... Non credo proprio. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. E io volevo salutare anche mia sorella e ragazzo, che pure loro oggi sono andati a pedalare. Vola, vola, vola sulla bicicletta. E io invece volevo salutare mia madre, che incontrando i ciclisti li ha insultati dall'inizio alla fine, non sapendo ciò che si stava perdendo. Sulla bicicletta puoi viaggiare in tondo oppure andare in linea. Io non volevo salutare nessuno particolarmente, però vabbè. Vola sullo stress, vola sull'asfalto, su serrato, su pavè. Pure per me va bene. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa attesa, prima ancora che sia finita già pregusto la discesa. Vado alla pigrizia, picco largo all'allegria, tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione, con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione, libera la mente, il corpo e l'immaginazione, con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare, tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione, sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, che grande passione, e non prendo più né multa né contravvenzione. Velocipede, che grande invenzione. Velocipede, che grande passione.

Allora, sfumando le note di Mark Ronson, 87.9 Radio Onda Rossa, questo è Caffè Doppio con la puntata dedicata alle canzoni sulla bicicletta. Dovremmo aver ripristinato il collegamento con la CMona di quest'oggi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, allora, com'è andata questa pedalata e l'arrivo al mare? Da paura, è andata benissimo, sono stati 3 giorni fantastici. Venerdì tantissima gente, siamo andati in centro partendo da Piazza Vittorio, che è insomma una partenza significativa, ed era tantissima gente. Sabato, giornata meravigliosa nonostante la pioggia, tantissima gente, sicuramente sui 10.000 persone in bicicletta. E su Via Nazionale tantissime persone mi hanno detto di essersi emozionate guardandosi davanti e dietro, quindi fantastico. E poi alla SNI è stato un seratone, bellissima gente, bellissima atmosfera, era proprio una festa, è stato veramente bellissimo pure da parte nostra. Insomma, alla SNI è stato piuttosto faticoso perché loro stanno campeggiando da noi da tanti giorni, quindi abbiamo cucinato per tutti loro, però nonostante la fatica è stato veramente fantastico. E poi oggi tutti al mare, è stata una giornata splendente, tantissimi sulla Colombo, e bello, bellissimo, siamo molto contenti. Ho capito. Pronto? Sì, ci siamo. Va bene, senti, ti ringrazio a questo punto e ti lascio alla fine di festeggiamenti di questa pedalata e sicuramente ti lascio riprendere fiato, deve essere stato anche faticoso oggi. Sì, no, adesso ci stiamo già attrezzando per tornare tutti quanti alla SNIA. Ho capito, quindi... perfetto. Beh, allora, ti ringrazio ancora. In città. Va bene, ok, a presto. Ciao, buona serata a tutti e a tutte. Ciao. E allora, Caffè Doppio comincia a salutarvi, però vi rimanda prima di salutarvi all'appuntamento di stasera, perché oltre alla Cemona in questi 3 giorni si è svolto un altro festival molto importante. Devo dire, sono rimasto molto stupito e soddisfatto delle band che hanno... si sono avvicendate nel corso delle serate sul palcoscenico dell'ex cinodromo dell'Acrobax. Soprattutto quelli che presentavano sulle frequenze di Onda Rossa tra un sì, loro sono bellissimi. Fantastici, soprattutto quello biondo che pare un ottantenne, cioè capelli bianchi. Cioè. In ogni caso questa sera avremo solo band italiane, l'ingresso sarà gratuito, quindi vi invitiamo a partecipare in molti, anche perché la serata si preannuncia, insomma, una serata calda o comunque senza pioggia. Ieri c'era un po' di rischio. Sei stato un po' vago, stiamo parlando della Music Festival, festival di musica indipendente ospitato dall'ex cinodromo in via della Vasca Navale 6, i cancelli aprono alle 7, l'ingresso è gratuito. Stasera tra l'altro si inaugurerà lo skate park. A questo punto Caffè Doppio vi saluta in questo 27 maggio 2012, 18 e 1 minuto 4 secondi, qualche minuto di ritardo, vi lasciamo a Jasi, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e chi ci ascolta da dietro le sbarre oppure dalla bicicletta. A questo punto sì. Ciao, okay, a tutti. Caffè Doppio vi rimanda alla settimana prossima che sarà, non mi ricordo più che numero purtroppo. Il 3. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Ciao, Wayo! Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali?